Voci dal giro. A Cortina vince Rodriguez, dietro di lui Ivan Basso, poi esce Daluran, Scarponi e Pozzovivo. Ivan Basso, buonasera. Buonasera a voi. Possiamo dire, Ivan, che tra questi sei uscirà il vincitore del Giro d'Italia? Ah, no, questo non dovete chiederlo a me, io sono concentrato sulla corsa, quindi è difficile fare pronostici di chi mi precede, chi mi segue. Noi, quello che posso dire è che noi nei prossimi giorni continueremo a correre con lo stesso atteggiamento che la mia squadra ha imposto dall'inizio di questo giro, e poi vinca il migliore. Però comunque con venerdì, sabato e domenica ci sono tre tappe che sicuramente daranno una svolta importante giorno dopo giorno a questo giro. Esce dalla classifica Kreuziger, però questo Ejedal comincia a far paura anche perché va forte a cronometro. Ma fanno paura a tutti, è chiaro che bisogna, io rispetto tutti i miei avversari chiaramente, però resto unito ai miei compagni e fiducioso nella nostra forza, del nostro gruppo. Questo è quello che secondo me ci permetterà di fare la differenza. Dopo qualcuno domenica arriverà da noi, bisognerà solo che fare i complimenti. L'ultima cosa, ti abbiamo visto con la faccia giusta oggi sulla montagna. Mi fa piacere. Io devo dire che per me è stato oggi un ottimo risultato. È mancata la vittoria finale, però io credo che è stata una prova molto molto buona e andiamo avanti così. Grazie Ivan, a domani. Arrivederci. Grazie ad Ivan Basso, l'appuntamento con il Giro d'Italia domani mattina dopo GR Sport. Buona serata. Voci dal Giro.